Buonasera a tutti e bentornati sulle frequenze di Radio Live Session. Chi vi parla è Claudio, la parte tecnica Giangi come sempre per questo programma di rock. Cominciamo con i 10 Years After, Sugar the Road. Siamo al rinvio dei suoi 10 Years After e andiamo avanti. Questa sera il programma sarà un pochino più scoppiettante rispetto alle ultime due puntate e andiamo avanti con gli UFO Snot Shot. She's got a ascoltate sempre Radio Live Session, alla voce Claudio, alla parte tecnica Gianji, il programma è la storia del rock. Ci ascoltiamo adesso uno dei chitarristi più famosi di questa epopea del rock dei primissimi anni, si tratta di Ted Nugent, A Thousand Knives. Questo era Ted Nugent, questo è sempre Radio Live Session. E con il prossimo chitarrista che andiamo ad ascoltare facciamo il paio con Ted Nugent, due con magari non tantissima tecnica ma molto molto cuore. Frank Marino, Dancing Lady. We'll be right back. lasciamo Frank Marino, ci spostiamo in una delle città che sono state un po' un simbolo per i giovani degli anni 70-80, Kathmandu, Bob Seger. Against the West Coast, Warner Brothers are such good hosts. I raise my whiskey glass and give them a toast. I'm sure they know it's true. I got no rap against the Southern states. Every time I've been there, it's been great. But now I'm leaving and I can't be late. And to myself be true. Kathmandu, really, really, really going to, if I ever get out. Andiamo via da Kathmandu e andiamo a trovare Janis Joplin. Try I Just a Little Bit Harder. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care. It's a dream. Grandissima voce quella di Janis Joplin. Passiamo adesso a un gruppo di arzilli vecchietti che quando hanno scritto questa canzone erano ancora più arzilli e un po' meno vecchietti. Stiamo parlando dei Rolling Stones. You can always get what you want. Rolling Stones, questa è Radio Live Session. Thank you.

questo è sempre Radio Live Session. Intanto che salutiamo Dan Jay che è arrivato negli studi, andiamo avanti con Jimi Hendrix e Foxy Lady. Sempre grande il buon Jimi Hendrix, sempre grande la scelta dei brani da parte di Giangi e proseguiamo con i Grand Funk Upsetter. Yeah! Lasciamo il gran funk e andiamo a riprendere Alvin Lee e i suoi 10 Years After, Choo Choo Mocha. E sempre su Radio Live Session ci andiamo ad ascoltare un blues dei Led Zeppelin, You Shock Me, Led Zeppelin, Radio Live Session. erano i Led Zeppelin, gli Ussacchi. Mentre Tangei comincia a spingere per prendere il nostro posto, noi andiamo avanti e resistiamo, con Joe Cocker, The Letter. Questo è sempre Radio Live Session, io sono Claudio, la parte tecnica Gianji e purtroppo siamo arrivati anche alla fine. Dan Jay comincia a spingere, non riusciamo più a trattenerlo per il suo programma anni 80. Chiudiamo il nostro programma con il Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. E su queste note ci salutiamo, l'appuntamento per domani alla stessa ora. Grazie a tutti, ciao da Claudio e da Gianji, Radio Live Session. sulle note di The Little Skillet, Sweet Home Alabama. Salutiamo Claudio e Gianji, buonasera, buonasera, ci vediamo domani sera. Buonasera a tutti, intanto io sono Dan Jay, questa è la nostra ora anni 80, l'80 Superstars. Iniziamo subito con un pezzo a cui tengo parecchio, sì, loro sono i Fine Young Cannibals, Johnny Come On. Intanto buonasera a tutti, ben arrivati. Radio Live Station, allora da anni 80, della terrazza di Torino di Radio Live Station. Si inizia a muoversi. We'll be right back. can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Beh, sicuramente l'avete riconosciuti, loro nei Depeche Mode, Just Can't Get Enough. E ora voglio entrare con un pezzo che era il pezzo che si usava, perlomeno io ero piccolino, ma si usava in ogni discoteca, in ogni apertura di programma, si usava questo pezzo, I Love My Radio. Tappi! All the good times I recall. Whoa, oh my God. e siamo sempre su la frequenza Radio Live Session. Io sono Dan Jay, questa è l'ora anni 80 qui dal terrazzino di Torino della nostra radio. Intanto volevo salutare tutti coloro che sono presenti in onda quest'ora, che ci stanno ascoltando. Ciao a tutti, scrivete il vostro nome in chat, così almeno possiamo salutarvi. Qualcuno in radio prima mi stava parlando di un certo denaro e allora ve lo facciamo ascoltare con Mad Desire. Desire, lui era Denaro, italianissimo. Negli anni 80 si usava molto, c'è stato questo periodo dove sotto il patrocinato di un certo Claudio Cecchetto è nata praticamente la musica da discoteca, come la conosciamo adesso, la musica elettronica. E rimaniamo quindi sul tipologia italiana, sempre un pochino più tranquilla, lasciamo i ritmi più elettronici e loro sono i 900 con Moving On. 1900 con Moving On, sempre su Radio Live Session, e questa Donna Rouge, Fake. La nostra ora anni 80 prosegue, proseguiti, sono sempre Dan Jay dal terrazzino di Radio Live Session. Scrivete i vostri nomi in chat, mi raccomando, scrivete. Donna Rouge, Fake, sempre sul filotto italiano, rimaniamo in questi minuti su questo genere italiano anni 80. 80 Superstar, io sono sempre Dan Jay. Loro sono un gruppo che sono tornati di moda qualche tempo fa con un noto programma televisivo, sono i Chrisma, sì, sono i Chrisma con Many Kisses. Tutta da ascoltare e da ballare. Radio Live Session, questa sera mettiamo un po' di musica un pochino più danzereccia di settimana scorsa. Con Many Kisses, sempre su Radio Live Session. Stasera staremo insieme per due ore perché manca Gianni. Nella seconda ora, l'ora italiana, faremo qualcosina di diverso, visto che manca lui, ne approfitterò per farmi i fatti miei. Bene, continuiamo sempre sull'italiano. Lei, quella che arriva adesso, è Diana Hest, con un pezzo scritto niente po' di meno che dai signori Alberto Camerini ed Enrico Ruggeri, Le Louvre. Secoli, quei nomi lì. E lasciamo così il filone italiano per dedicarci a arrivare d'oltre manica. Loro erano gli In Deep, questi erano gli In Deep. Senti già come suona. La Sdana DJ Save My Life, e qui c'era un ospite d'eccezione. Pensate, questo disco fu praticamente chiamato il primo disco house della storia. Erano appena finiti gli anni 70. Chi gli mise le mani sopra era un certo signore chiamato Cerrone. That I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. Disco band degli Scotch. Radio Live Station, io sono sempre Dan Jay, l'80 Superstar con noi. Thank you. there was a battle there. In Zaire. 100,000 people there. In Zaire. All those people gathered there. In Zaire. See the rumble in the jungle there. In Zaire. There came a man called Elijah. In Zaire. With him came a superstar. In Zaire. All those people came from far. In Zaire. To see the rumble in the jungle there. In Zaire. And who was the victor in the night? Elijah Muhammad's boy. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to. A place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. And we can dance. Behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Dancer. We can go when we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance. Oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Mm-hmm. down. We abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. The Safety Dance. Noi abbiamo ancora pochi minuti da stare insieme, volevo farti ascoltare ancora qualche brano, dopodiché subentrerò di nuovo io per la seconda ora, ma stasera la seconda ora italiana sarà leggermente diversa, un pochino più trasversale, perché non c'è Gianni, quindi mi faccio un po' i fatti miei stasera. Bene, noi andiamo avanti, vi faccio ascoltare Advisors e Daniel Sakulela con Giddy Up A Go Go. Giddy up a go-go, up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Down and down the brain, slowly up again. Up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Tell me what you feel when you make a winning deal. Believe it, and it'll happen to you. Once it will come through. Going up and down, spinning round and round. Up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Down and down the brain, slowly up again. Up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Giddy up a go-go, up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. We'll be right back. up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up, a go-go. A giddy up, a go-go. Giddy up a go go. Io sono sempre Dan Jay, questa è Radio Live Session, l'ora anni 80. Bene, ci manca ancora un paio di brani, diciamo, per finire questa ora anni 80. Vi faccio ascoltare qualcuno di veramente elettronico. Loro erano i New Order con True Faith. We'll be right back. i New Order, True Fate. Bene, io volevo lasciarvi con un pezzo, visto che stanno tornando le nuvole questa sera di mezz'estate alla nostra terrazza di Live Station. Sentite già le cicale, i grilli? Si sentono? No, si sentono poco. Bene, bene. Bene, vi lascio con questo pezzo, loro i Frere, con Dudut. Per quanto riguarda le 80, ci vediamo lunedì prossimo. Noi invece ci sentiamo tra pochissimi istanti con l'ora italiana su Radio Live Station. Con Dudut. Tra l'altro i Frev sono quelli che poi sono diventati gli Underworld, tanto per la cronaca, e tra l'altro saranno quest'anno, si può dire? Sì, al Free Festival, Traffic Free Festival alla Reggia di Venaria l'11 luglio gli Underworld a Torino, finalmente. Bene, buona sera a tutti, questa è l'ora italiana. Questa sera Gianni non c'è perché è in ferie, noi gli facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno e siccome appunto non c'è, l'ora italiana sarà leggermente diversa, leggermente trasversale dal solito. mi farò un po' i fatti miei, diciamo, vi farò ascoltare qualche i gruppi del sottobosco, gruppi un pochino più underground italiani che pochi conoscono ma fanno ottima musica, a differenza dei soliti grandi artisti che siamo abituati ad ascoltare dappertutto. Bene, apriamo questa ora con gli Scisma, Tungsteno e Dario. Scisma di Paolo Benvenu e Cristina Donà, che ascolteremo anche più tardi con qualcos'altro di più recente. Andiamo avanti con un altro artista italiano, questa sera appunto solo musica trasversale. Italiana sì, ma più trasversale del solito. Mi raccomando, intanto scriveteci per salutarvi, per salutarci, per salutarvi. Andiamo avanti, lui è Lombroso con Lato Oscuro. No, no. possa rivivere, portata via quella terra che era il pulso di vita. Volvere lacrime per dirsi che non c'è bisogno di aspettarsi tanto. Il lato oscuro, l'ombroso, era con noi, Radio Live Station. Io sono Dan Jay, questa è l'ora italiana diagonale, diciamo. Stasera è un po' leggermente più diagonale del solito. Andiamo avanti ascoltando i Grenonville, io te, Milano. Dove sia? Grenonville, io te Milano e la Novessia. Rimaniamo sempre sulla scena milanese con alcuni ragazzini, un paio di palle, hanno una certa età, loro portano una bella maschera in testa, in faccia, e sono i tre allegri ragazzi morti. Fragili, arroganti ed insolenti, invadenti e stupidi, prepotenti e fragili, impauriti come mai, malinconici e sognanti, indolenti e sofferenti, dipendenti dai parenti e dagli amori che non hai. Stai come me, stai come me, stai come me, stai come me. Vuoti insoddisfatti e sorridenti, soli e inconsolabili, instancabili ed assenti, prepotenti e fragili, impauriti come mai, indolenti e sofferenti, dipendenti dai parenti e dagli amori che non hai. Stai come me, stai come me, stai come me, stai come me. Specchio, specchio, specchio delle mie brame. Bene, dopo questa ho ricevuto una bella notizia e loro erano i tre ragazzi allegri, ragazzi morti. Li avrete sicuramente visti in giro, loro sono un pochino più fuori dall'underground con le loro belle mascherine, molto molto bravi, molto bravi, decisamente da ascoltare parecchio, un bel rock and roll sano, puro, genuino. Andiamo avanti con un altro pezzo leggermente duro, poi ci ammorbidiamo un pochino. Vi faccio ascoltare i ministri. Non mi conviene puntare in alto. We'll be right back. questi sono i ministri. Non mi conviene puntare in alto, rimaniamo sempre bassi, bassi, bassi, bassi, e godiamo il momento che viviamo. Ci ammorbidiamo leggermente in questo momento, diamo un attimino, un momento dell'amore, lo chiamiamo, va, facciamo così. Vi faccio ascoltare una certa Pedra Magoni, no? Non so se ve la ricordate, qualche anno fa in un Sanremo. Lei ha rifatto un album, due doppi CD, ha ripreso con voce e contrabbasso i classici italiani e non. Fece ascoltare Splendido Splendente, lei Pedra Magoni. Splendido Splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para pa pa para. Para-pa-pa-pa-ra. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di un amante. Splendido, splendente, para-pa-pa-pa-ra. Para-pa-pa-pa-ra. Para-pa-pa-ra. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna, senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa, para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna, senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa, para pa. Pietra Magoni in un classico di Donatella Rettore, Splendido Splendente. Bella, molto molto molto bella. Vi consiglio l'album perché è decisamente interessante da ascoltare. Andiamo a ascoltare adesso un altro gruppo che a me particolarmente piacciono parecchio. Sono i Diasonica con Non Dimentico Più, un pezzo molto ma molto ma molto romantico. Oggi la mia confusione è tornata leggera. Solo se accolgo le mani di chi io non so. Cado latente nel buio che prima non c'era. Sento il suo volto che ride, io non tornerò. non dimentico più, non dimentico più. Love you. Okay. Lieve solenne mi avvolge un'anima in pena. Sembra che mi dia il colore che ancora non ho. Parla di stringeva, apro le mani e si accorge che mi seguirà. Non dimentico più, non dimentico più. Okay. I will always love you, I will always love you, okay. Sonica, non dimentico più, un pezzo, diciamo un capolavoro, perché quando ci va, ci va. Chi vi faccio ascoltare adesso è Diego Mancino, con tutte le canzoni. Siccome tu sei stella, languida e distante, misurerò l'abbraccio che tutti ci contiene e contiene l'universo e tutte le distanze. Sei bella, progetto la conquista di una città spaziale, nel moto circolare delle tue carezze, tutte le distanze. Lingua segreta che parlo, sublimi, sciocche sta arrivando. Siccome io sono pietra e tu sei una montagna, nient'altro posso fare che rotolare, continuare a rotolare. E tutte le distanze, tutte le distanze piccole saranno, tutte le distanze, tutte le distanze piccole saranno, piccole saranno, piccole saranno, piccole saranno, piccole saranno, piccole saranno, piccole saranno. Diego Mancino su Radio Live Session, io sono sempre Dan Jay, questo è Lunedì Notte Italiano. Un lunedì notte leggermente trasversale, leggermente diverso. Salutiamo ancora Gianni, se ancora l'ascolto, magari sarà buttato in qualche balera, chissà dove sarà, già ubriaco, non sapremo. Comunque, andiamo avanti, fateci sapere se vi piace questa programmazione di questa sera, leggermente diversa dal solito. E noi andiamo avanti con i Baustel, sono arrivati un pochino più, tra virgolette, più al grande pubblico. Qui è un pezzo di qualche anno fa, la canzone del riformatorio. Ti ho ferito e di nuovo Baustelle, la canzone del riformatorio, qualche anno fa, era l'album, non lo ricordo, comunque poco importa. Se vi piace scriveteci tutto ciò che avete da dirci, se non vi piace scrivetelo lo stesso, perché no, noi cambiamo tutto quanto al volo. Vi faccio ascoltare un altro poeta, vi dicevo prima degli Scisma che aveva fatto ascoltare qualcos'altro, e lui è Paolo Benvenu con Il mare verticale. Scavare a mani nude nella terra per sentire il sangue mescolarsi con la pioggia, cauterizzare le ferite, vivere per il solo senso che ha. Come nuotare in un oceano congelato per sentire il cuore che ti esplode dentro il petto, vivere per immaginare, per percepire il solo senso che ha. Che le cose passino e mi sfiorino, perché non sono ancora in grado di comprenderle. Io lascio che le cose passino e mi sfiorino, perché non sono ancora in grado di comprenderle. Se passi noi mi sfiori, no. Essere deboli in un mare verticale, sentire quanto i rischi possano aumentare e odiare per sentirsi vivi, per percepire il solo senso che ha. E improvvisamente ritornare primitivi, essere comici e tornare primitivi, e bere il sangue del nemico solo per gustarne la diversità. Io lascio che le cose passino e mi sfiorino. Apollon Benvenu, il mare verticale, un grande poeta della musica italiana. Sinceramente non ho parole perché il pezzo è veramente bello. E niente, chiudiamo questo momento un pochino più lento, più armonioso, per dedicarci a un duo napoletano, lo sono i Chief e Reverendo. Il brano è Il Nome, quindi spingiamo un attimo di più. Solo per amore, dimmi qual è il nome di chi trascina nella guerra la nazione. Mi chiameranno tutti traditore, ho disertato solo per amore. A tutta la nazione fascina il gran press, la vita così è soltanto uno stress. Medici, evolution, guerra e pure tutto il rest. A tutta la nazione fascina il gran press. Non si respira, manca l'aria apnea, qui brucia tutto, sembra Corea. E sto scappando dal mio cuore che fiamme, contro la rovescia, zero l'allarme. In questo mondo che mi sembra spaccato, i soldi giusti di te mi ti ha sbagliato. Rimani tu come mio unico dato, certo come il giorno in cui mi ha trovato. Milano chiama pari, allo stress risponde cuore. Toni di grigio affogati nel colore, qui si fonde terra e sole. Acciaio con vendette, mentre Eder era stativa, ora sconvolge le tue orecchie. Storie vecchie, strade nuove, dramma che commuove. Chi si muove perduto, chi sta fermo cerca il nome di chi canta nel coro, di chi canta con loro, di chi ha quanta la mela, ma il peccato non è loro. Morsi duri nello stomaco, bitume nei polmoni. Sotterro il mio tomahawk, cerca dei cognomi. Prendi posto in prima fila, comincia lo spettacolo. Strappiamo via il sipario sui segreti del miracolo. Italiano puro sangue, pronti a scorrere sul set. Disturbiamo il loro sonno, noi neofiti mai back. Più che high tech e flashback, il retro coi giurassici. Rilassati e lasciaci smontare i tuoi neoclassici. Hey, dimmi qual è il nome di chi trascina nella guerra la nazione. Mi chiameranno tutti traditore, ma ho disertato solo per amore. Hey, dimmi qual è il nome di chi trascina nella guerra la nazione. Mi chiameranno tutti traditore, ma ho disertato solo per amore. Bam, bam, tra la gente, bam, bam, per le strade, bam, bam, ora e sempre. Vengo a Il genio non è possibile su Radio Live Session. Questa è la nostra ora italiana. Ci scusiamo per prima, abbiamo avuto un piccolo problema sul microfono, ma ci siamo tornati e siamo qui a posto. Niente, andiamo avanti. Vi faccio ascoltare adesso Sick Tamburo con Dimentica. Sick Tamburo, ovviamente, sembra dimentica, sembra che la cantante non abbia nulla a che dire a nessuno, guai, guai a provarci. Niente, andiamo avanti, noi abbiamo praticamente finito questa ora alternativa, questa ora italiana alternativa di questo lunedì notte. Abbiamo ancora un paio di brani, guarda, vi faccio ancora ascoltare una... Loro sono Marta sui tubi con La Spesa. Un'altra sera a casa a masticare noie surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale. selva sta scelta mi si presenta che sceglierò. Marta Situbi. Bene, grazie di averci ascoltato questa sera per queste due ore non lunghe, brevi. Grazie ancora di averci ascoltato. Io sono Dan Jay, per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì prossimo, perché questo giovedì sera non andrò in onda io, avremo un ospite in Radio Live Session lunedì prossimo insieme a Gianni per l'ora di anni 80 e italiano. Fateci sapere se quest'ora vi è piaciuta, così continueremo a farvi ascoltare musica leggermente alternativa dal solito. Vi lascio con un artista, Morgan, con Altrove. Buonanotte a tutti. Ciao, Dan Jay. Radio Live Session. Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Forse già lo sai, che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco. Semplice, ma ho sprecato tutto.